Quest'anno, tra i molti trend del fuorisalone del mobile, raccontiamo quello legato alla materia. L'abbiamo chiamato raw, significa grezzo, crudo. E si tratta dell'uso degli elementi esistenti in natura, anche poveri, quindi pietra, legno, compresi gli scarti e i rifiuti, tessuti e materiali come il feltro, le lane grosse, le lane cotte, il bambù e il legno composto. Materiali che, con la loro consistenza, calore, la loro texture, con la loro irregolarità e ruvidità, rievocano quegli elementi archetipici del mondo naturale, quello non seriale e soprattutto quello non perfetto, cioè con i giusti difetti, dove l'imperfezione, questo è un dato interessante da sottolineare, diventa una caratteristica di sostanza, un elemento di valore, segno di unicità. La filosofia, la tendenza raw contagia anche il cibo, che diventa, anzi, per meglio dire, resta crudo. Consumare solo gli alimenti crudi per sfruttarne al meglio le proprietà nutritive. È l'impegno del raw food, un trend che sta conquistando sempre più sostenitori nel mondo. Le vitamine e i sali minerali presenti negli alimenti restano intatti, dicono i fan del crudismo. La digestione viene stimolata, l'intestino pulito, l'organismo disintossicato. L'approccio raw ormai è diventato un vero e proprio stile di vita. Ecco allora le Raw Spa: dieta, trattamenti detossinanti e lezioni di alimentazione crudista. Fondamentali per quest'ultima gli strumenti per la lavorazione a freddo, germogliatrice, essiccatore, fioccatrice macina cereali e estrattore di succhi che, a differenza della centrifuga, non scalda. E nei juice bar crudisti spopola il succo di erba di grano, considerato un vero e proprio elisir di lunga vita.